perché scrivere dell'amore che fa volare il tempo? Perché fingere di conoscere le parole per dirti ora quello che sento? Io non credo che sia diverso e non fingo che sia per sempre. Quello che pensammo fosse poesia è solo una storia che umanamente, come tante, vorrebbe durare. Viaggiare gli anni semplicemente fino a guardarci invecchiare. E un giorno qualunque dire del tempo che non smarrì mai il nostro amore, che non smarrì mai il nostro amore. Finissi adesso, che ne farei del tempo? Che ne farei dei giorni che se ne andranno ad aggiungersi tutti sul mio conto? Per presentarsi dentro uno specchio una mattina senza futuro, a ricordarmi senza pietà che sono vecchio e non potrò più innamorarmi. Perché l'amore è un giovane incanto, scambia promesse e l'avvenire è vivere l'uno all'altra accanto, fino a invecchiare e sperare che il tempo non smarrirà mai il nostro amore, non smarrirà mai il nostro amore.